Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con le riviste italiane e straniere, settimanali, mensili, periodici in genere, insomma, da cui cerchiamo di dare qualche consiglio di lettura o di segnalarvi qualche cosa magari di curioso, di divertente. Allora, il periodo mi sembra assolutamente propizio per la notizia con cui intendo cominciare. Forse non tutti sanno che diceva e dice tuttora una fortunata rubrica di un fortunatissimo magazine, forse non tutti sanno che c'è la crisi anche per gli alberi di Natale. In realtà qui la crisi economica non c'entra niente, la notizia viene dal mensile del Sole 24 Ore, lo trovate in vendita con il nostro quotidiano, chi già lo conosce sa che la sigla sta per Intelligence in Lifestyle, è un mensile in cui si mettono una serie di cose, un po' di tendenze. Il numero di questo mese ha in copertina la Turchia, all'interno quindi trovate molti articoli sulla Turchia, ma invece all'inizio, nelle prime pagine, quelle che sono intitolate Green Report, si parla invece di questo problema di chi coltiva appunto gli alberi di Natale, gli alberi veri si intende, non quelli finti, perché proprio appunto la concorrenza degli alberi in plastica sta mettendo a dura prova già da anni i produttori, tant'è vero che ora hanno deciso di passare al contrattacco. Questo succede negli Stati Uniti, ce lo riferisce Damiano Beltrami su Il. Vi leggo qualche passaggio. Il senso è il seguente: calano le vendite di alberi veri per Natale e negli Stati Uniti i produttori di abeti si autotassano per farsi pubblicità. Allora, spiega che appunto si parte da questo signore Bob Schaefer, dice: da diversi anni i Natali di Bob Schaefer sono amari, perché dopo il tradizionale pranzo il principale dell'azienda agricola che si chiama Noble Mountain di Salem nell'Oregon settentrionale si avvicina alla finestra, getta uno sguardo preoccupato allo stuolo di abeti ancora sul terreno che sono invenduti. Negli Stati Uniti la produzione di abeti natalizi ha subito un calo del 16% dal 2002 al 2007, quindi è scesa da più di 20 milioni a 17 milioni, a poco più di 17 milioni, questo dicono gli ultimi dati del Ministero dell'Agricoltura americano. Al contrario, il numero di alberi finti che sono stati acquistati dai consumatori è quasi raddoppiato e ha superato appunto i 17 milioni, quindi si è arrivati a una sostanziale parità tra alberi veri e propri, tra alberi veri e alberi di plastica. Tra l'altro c'è una convinzione per cui l'albero vero sarebbe da evitare perché appunto poco ecologico, ma come spiega lo stesso Il, si tratta tutti di alberi coltivati e quindi non c'è un problema dal punto di vista della tenuta ambientale. Hanno deciso i produttori americani di farlo sapere ai consumatori. Secondo Schaefer, infatti, continua l'articolo su Il, quest'anno comincerà la riscossa. Il vivaio ha convinto i suoi colleghi, che sono tutti radunati da un'associazione, si chiama Associazione Nazionale dei Coltivatori degli Alberi di Natale, che l'unico modo per reagire a questa concorrenza del pino di plastica è quella di autotassarsi, lanciare un'aggressiva campagna pubblicitaria ricalcando un copione sperimentato con successo ad esempio dai produttori di latte bovino. I vivaisti così sborseranno 15 centesimi ad albero venduto e avranno a disposizione in questo modo 2 milioni di dollari circa da investire proprio in pubblicità. Sbotta Schaefer al telefono, raggiunto appunto dal collega di Il: è ora di finirla con la favola degli alberelli di plastica cinesi, tanto carini ed ecologici. Questi stregoni del marketing aziendale ci stanno affossando, raccontando la leggenda che noi tagliamo gli alberi di Natale nei boschi, quando invece sono 40 anni che li piantiamo e li cresciamo come si fa con il grano, quindi non c'è un pericolo di depauperare il patrimonio boschivo. E naturalmente questo sarà uno degli argomenti trainanti per sostenere la campagna pubblicitaria dei coltivatori di alberi veri. Tra l'altro esiste anche, lo prendo sempre dall'articolo di Il, naturalmente un'associazione per quelli che fanno invece gli alberi di plastica, e quindi ci sarà poi questo scontro tra produttori di alberi veri e alberi di plastica. Hanno anche messo a punto tutto un sistema di recupero dell'albero una volta che il Natale è passato, perché poi c'è il problema naturalmente di smaltire l'abete una volta che non serve serve più. Vengono ad esempio a New York, l'anno scorso hanno trovato il modo di sminuzzarli, farne del pacciame. Il pacciame è quel materiale che si usa per proteggere le radici delle piante dal gelo, per limitarne l'insolazione, e quindi questo è un utilizzo possibile, assolutamente ecologico, dell'albero vero, dell'abete vero, che però sta subendo la concorrenza decisa degli alberi finti di plastica. Da una crisi negli Stati Uniti a un altro segnale di crisi, ma questa volta coniugale, che però prendo da 7, dal settimanale, dal magazine del Corriere della Sera, che trovate ancora in edicola con il Corriere, lo trovate da giovedì. Apprendo dalla rubrica Mix che in Iran stanno aumentando i divorzi, per ogni matrimonio celebrato si contano 4 divorzi, non solo, così riferiscono. Molti cittadini in età di matrimonio scelgono di non andare all'altare. Questa è la fotografia dell'Iran di oggi. Nell'ultimo anno le separazioni risultano in crescita del 16%, mentre le unioni si sono incrementate solo dell'1%. Ecco, in questo bisogna cogliere appunto quel paradossale numero iniziale che dicevo, quindi un matrimonio celebrato e intanto sì, però ci sono 4 coppie, 4 ex matrimoni che non sono più tali, appunto. C'è chi parla di società islamica in crisi e va detto che potrebbe influire su questo atteggiamento il fatto che le ragazze iraniane frequentano adesso l'università come mai accaduto in precedenza. Attualmente sono circa il 60% degli studenti. Dopo la laurea cercano lavoro, quindi si sentono, sono più emancipate, e la cosa imbarazzerebbe, riferisce appunto 7, gli ayatollah delle gerarchie islamiche. Con una scelta gustosa, sempre la pagina di 7 associa questa indicazione su una maggiore emancipazione della donna in Iran e quindi anche un aumento dei divorzi, il fatto che c'è un aumento, o risulterebbe esserci un aumento, delle infedeltà coniugali in Israele, quindi mettendo insieme due paesi, come sappiamo, che non stanno volentieri vicini. Gli israeliani, riferisce infatti sempre il magazine del Corriere, nella vita di coppia sono un popolo di infedeli. Ci sono stati 2 sondaggi commissionati da uno studio legale che è proprio specializzato in cause di divorzio, e secondo queste ricerche l'85% delle coppie israeliane ha tradito, tradisce o non esclude la possibilità di tradire il proprio partner. Certo, la domanda verrebbe da dire era un pochino vasta, e in questo spettro così ampio poi in molti si possono riconoscere, forse addirittura di più dell'85%. La percentuale di infedeltà di uomini e donne è quasi identica. Questo effettivamente sembrerebbe anche dovuto non solo dalla statistica, ma per motivi ovvi, a meno che ci siano proprio dei professionisti del tradimento in circolazione. La maggior parte degli intervistati poi si è rifiutata di rispondere alla domanda se confesserebbe o meno di aver tradito. Tra i pochi che hanno risposto, 2 su 10 hanno detto lo rivelerebbero solo al migliore amico o alla migliore amica. Percentuali inferiori lo direbbero al parente stretto, soltanto il 7,7% lo rivelerebbe al partner. Quindi magari poi la coppia resiste nonostante, come si dice in questi casi. Ho un'ultima segnalazione ancora dalla rubrica Mix, è una rubrica che è curata da Donatella Bogo, spesso ci capita di citarla perché la raccolta delle notizie è interessante. Chi mangia più pizza? Siamo il secondo paese al mondo per consumo di pizza. Il primo paese al mondo però restano gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno un consumo di 13 kg di pizza all'anno, e invece noi abbiamo un consumo di 7,5 kg circa all'anno, quindi siamo ben piazzati, ma chiaramente non potendo contare sulla voracità statunitense e anche sulla capacità della popolazione statunitense, dobbiamo accontentarci del secondo posto. A un'incollatura immediatamente dietro di noi il Canada, forse in modo sorprendente, con 7,5 kg di pizza consumata ogni anno. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, ci siamo lasciati poco fa con una classifica internazionale del consumo appunto di pizza nel mondo, una classifica che ci vede al secondo posto dopo gli inarrivabili Stati Uniti, ma tallonati, come vi ho segnalato, a pochissima distanza dal Canada, che è un ottimo consumatore di pizza. Allora restiamo un po' all'estero, intanto vi do una indicazione appunto per l'estero, in edicola da ieri i viaggi del sole. Sapete che ogni mese il Sole 24 Ore propone un volumetto dedicato proprio al turismo, ai viaggi. Questa volta per appunto l'approssimarsi delle vacanze natalizie il volume è stato dedicato al mare d'inverno, sta a dire 50 mete dai Caraibi fino all'Oriente, Messico, Brasile, Oceano Indiano e così via, quindi il Kenya, le Seychelles, le Maldive, il Madagascar e così via. Le migliori occasioni, recita la copertina, per fuggire là dove è estate. Effettivamente il clima fa venire voglia di scappare in posti un pochino più caldi. Tutto questo sui viaggi del sole lo trovate con il nostro quotidiano da ieri, in vendita da ieri, appunto in abbinamento con il Sole 24 Ore. Noi restiamo in qualche modo con uno sguardo internazionale, con una segnalazione che ho trovato su Donna Moderna. Non mi ero mai posto il problema, ma anche i cosmetici, il trucco per le donne, può avere può scontrarsi con qualche sensibilità di tipo religioso. L'ho appreso appunto leggendo questo articolo di Filippo Bellini su Donna Moderna, che parla di cosmetici approvati dal Corano, perché le signore musulmane dispongono di trucchi e profumi su misura. Si chiamano halal, naturalmente, come è il termine con cui si indicano per appunto gli alimenti solitamente, ma quindi anche i profumi e i cosmetici ortodossi, cioè secondo la regola, e sono privi di derivati animali, sono privi di alcol naturale, così vuole la legge islamica. Quindi non so poi quanto sia l'osservanza delle donne musulmane nei confronti di questo tipo di dettato del Corano, però qui si spiega che è necessario che questi cosmetici non debbano impiegare derivati animali, soprattutto derivati di suini, e poi facciano attenzione all'uso dell'alcol. A parlarne con Filippo Bellini in questo articolo su Donna Moderna è Issa Benassi, che è la responsabile qualità appunto di una società che si chiama Halal Italia. Sono restrizioni, spiega Benassi, che rendono questi prodotti di bellezza molto simili a quelli che vengono poi certificati come prodotti bio, una sigla che effettivamente è più familiare per noi. Nel caso poi dell'uso di ingredienti animali il divieto è assoluto, mentre sul fatto dell'alcol, dal momento che in realtà l'alcol non viene ingerito, è possibile che vengano inseriti nei cosmetici degli alcol che sono di origine sintetica. Questa appunto l'indicazione che ho tratto da Donna Moderna sui cosmetici approvati dal Corano. E passiamo al venerdì, il venerdì che avete trovato ieri con Repubblica, un curioso effetto della globalizzazione, se volete vederla così, la vendita dei capelli. Quindi restiamo sempre in argomento un po' di cosmetica, perché è una cosa che riguarda soprattutto le signore. Perché ve lo spiego? Perché sul venerdì apprendo che in America stanno appunto le chiome che vengono prese dall'Ucraina, diventano extension e parrucche, quindi i capelli venduti dalle donne dei villaggi più poveri diventano poi un affare, ma un affare in realtà soprattutto per gli intermediari. A scrivere l'articolo Anna Lombardi, che spiega: la chiamano la nuova febbre dell'oro, ma non sono certo pepite quelle che inzeppano gli enormi sacchi di juta che quotidianamente partono dai più remoti e poveri villaggi dell'Ucraina. Si tratta di ciocche, sono ciocche di biondissimi capelli che le donne più povere della regione coltivano pazientemente in attesa che siano abbastanza lunghi per essere tagliati e venduti per poi ricominciare. Un anno li vende la madre e l'anno dopo li vende la figlia. Soprattutto sono i capelli delle bambine, che sono più sani e robusti ad andare a ruba, e per l'industria della bellezza, che li impiega in parrucche ed extension che vengono fatte rigorosamente con capelli veri, si tratta di un business immenso e globale. Naturalmente non c'è solo la richiesta di capelli di tipo biondo, più diffusi appunto in queste regioni, ma ci sono anche capelli neri stranieri che vengono fatti arrivare dall'India e dalla Cina. I più pregiati però appunto sarebbero questi capelli biondi che vengono dall'Ucraina. Ci sono le aziende specializzate, alcune si sono date anche una sorta di codice etico molto rigoroso. C'è un'azienda che dice sul suo sito di utilizzare solo capelli che sono stati acquistati nei templi indù dalle persone che hanno fatto voto di donare appunto le loro chiome. I maggiori utenti, i maggiori compratori di questi capelli sono gli Stati Uniti, si trovano negli Stati Uniti. Le extension, appunto quel metodo di allungare le capigliature che le signore soprattutto conoscono bene, sono state, diciamo, uno dei motivi per lo sviluppo di questo particolare commercio. Fa un po' impressione sapere che all'origine il fornitore paga più o meno $50 per 16 cm di capelli, dopodiché quando si arriva invece al riutilizzo in un salone di bellezza, quello stesso lotto può arrivare a costare 10 volte tanto, cioè $500. Qui si racconta anche di un intermediario ucraino che si chiama Kuznetsov e che ha battezzato la sua azienda con un nome italiano, Belli Capelli, appunto. Forse il signore non ha il senso dell'ironia o forse ce l'ha davvero molto sviluppato. Comunque fattura in questo modo 16 milioni all'anno. Ci sono però dei paesi che a questo punto stanno cominciando a vietare questo tipo di industria e cercano di impedire appunto l'esportazione dei capelli, l'acquisto e l'esportazione dei capelli. Tutto questo sul venerdì. E con questa segnalazione concludiamo la nostra puntata odierna. Vi ricordo che Magazine 24 ritorna domani, come sempre ritorna anche la domenica alla stessa ora. Io ringrazio Carmelo Lauricella questa mattina in regia e grazie come sempre ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questo programma. Buona giornata.